notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Professori e studenti in piazza contro il disegno di legge di riforma. Il ministro Giannini a Radio 24. Da anni non ci si occupava di scuola. L'Italia crescerà dello 0,6% quest'anno, dice la Commissione europea. Debito in calo a partire dal 2016. Moscovici sì, la ripresa del vecchio continente è in corso. Un'altra strage, decine di morti annegati nel Mediterraneo, lo riferiscono dei migranti sbarcati in Sicilia parlando con gli operatori di Save the Children. Scontri coi No Expo, promosso sul campo, l'agente ferito, annuncia il capo della polizia. Alfano polemico, in Italia sono diventati tutti allenatori dell'ordine pubblico. Italicum si allarga la spaccatura nel PD in vista dell'esame della riforma costituzionale. Grasso dice: non sono giustificabili i vitalizi ai parlamentari condannati. Si apre oggi uno sciopero monster del personale delle ferrovie tedesche. Treni fermi per 6 giorni. Deutsche Bahn stima una perdita di 500 milioni di euro. Champions League, questa sera la prima semifinale, in campo la Juventus contro il Real Madrid. Identificati intanto coloro che hanno lanciato la bomba carta al derby della Mole. Si tratterebbe di tifosi bianconeri. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms è il 349-238-6666. In apertura lo sciopero della scuola in piazza, decine di migliaia di persone. Siamo 25-30 mila, dicono i sindacati a Milano, nel corteo che porta in piazza insegnanti da ogni parte del nord. Arrivano dalla Toscana, dall'Emilia, dal Piemonte, dalla Liguria. Milano è un flusso di facce, molti cinquantenni, capelli bianchi e tanta inquietudine per una riforma che non piace agli insegnanti. Siamo tornati in piazza dopo tantissimo tempo perché non vogliamo che passi questo decreto legge. Batteremo su questo potere molto forte che sarà dato ai dirigenti e ci batteremo a favore dei precari, ci batteremo affinché questa scuola, la nostra scuola, io sono un insegnante di scuola primaria, sia una scuola veramente democratica, una scuola libera, una scuola per tutti, una scuola pubblica. 100 mila, secondo gli organizzatori in piazza a Roma, fianco a fianco docenti di ruolo e precari, studenti e genitori, per dire il proprio no al disegno di legge sulla scuola del governo Renzi. Quello che chiediamo è un segno di cambiamento rispetto a questo DDL, chiede il segretario generale della UIL Anna Maria Furlan in corteo a Milano. Siamo assolutamente pronti ad accoglierlo e speriamo davvero che si possa modificare il disegno di legge. La scuola è il futuro del nostro paese, quello che il paese innanzitutto offre ai nostri ragazzi. Nessuno può decidere da solo, insieme possiamo realizzare una scuola migliore. Dicono no ai maggiori poteri previsti dalla riforma per i dirigenti scolastici. Nella scuola abbiamo bisogno di presidi, non di podestà, avverte il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo, e a Milano qualche preside in corteo lo incrociamo. Non è vero niente, è semplicemente una facciata per far vedere quello che effettivamente non è. In che senso? Nel senso che praticamente individua, sceglie, non individua e non sceglie proprio nulla, perché praticamente è là il corpo di insegnanti, è là, faremo poi la guerra fra di noi a chi si prende quello che riteniamo più bravo. No, grazie. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parla ai microfoni di Mix 24, ospite di Giovanni Minoli, la ministra dell'istruzione, Stefania Giannini, e parte questo brano di intervista che vi facciamo ascoltare, poi il resto dell'intervista è sul sito www.radio24.it, dal tema degli idonei all'insegnamento che non rientrano nelle assunzioni. Sentiamo. Sì, ad oggi è così, noi non abbiamo il quindi hanno vinto il concorso, chiaro, hanno vinto il concorso, e che fanno? Assimilati sulle gare ai vincitori. E che fanno? Restano fuori? Non sono solo gli idonei, ci sono tanti. No, ma io parlo degli idonei che hanno vinto un concorso. Noi attiviamo un concorso, cioè loro hanno vinto il concorso e restano fuori. Per 60.000 posti. Beh, attenzione, non hanno vinto un concorso, sono stati idonei, sì, certo. Una cosa è avere la patente, questa è una cosa che va sempre spiegata nel nostro paese. Una cosa è avere la patente, una cosa è acquistare le macchine. C'è uno sciopero, mi scusi un attimo, c'è uno sciopero da 7 anni, non accadeva uno sciopero così con tutti i sindacati rappresentativi della scuola, che significa che da 7 anni non ci si occupava di scuola per cambiare. Questo può darsi. Così dunque il ministro Giannini. Vi ricordo che appunto l'intervista è disponibile sul sito www.radio24.it. Mario Rusconi, che insegna processi organizzativi della Scuola dell'Autonomia all'Università Roma 3, ma è anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Rusconi, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Come lei non era in corteo oggi? No. Amo gli approfondimenti, non amo così le improvvisazioni. Sento una cosa, come giudica questa riforma? Ma guardi, io ho detto che è una riforma che ha mille difetti e mille un pregio, metaforicamente parlando. Nel senso che ci sono molte cose positive, il pregio maggiore a nostro avviso è che diciamo così, dopo almeno 20 anni ritorna fuori il problema della cosiddetta governance delle scuole, vale a dire quali siano le competenze del capo d'istituto, del collegio dei docenti, dei singoli docenti e così via. Ha il coraggio inoltre di parlare di valutazione delle persone, vale a dire dei presidi e degli insegnanti. E quindi tutto sommato è di aspetto positivo. Di aspetto negativo è che non conosciamo bene le risorse messe a disposizione, tenendo presente che negli ultimi 10 anni sono stati tagliati alla scuola, è una cifra mostruosa, che sono 8 miliardi e 200 milioni di euro, che è una cifra mostruosa che non è stata assolutamente reimpiegata, questo fu all'epoca diciamo di Tremonti. E quindi questi sono aspetti che dovranno essere poi sostanziati nei decreti legislativi approfonditi. Senta, l'altra domanda che le voglio fare riguarda il ruolo che verranno ad assumere i presidi con questa riforma, no? Si è parlato di un preside manager, eppure l'intenzione che sta passando un po' sotto traccia, tanto nell'esecutivo, almeno da quel che abbiamo letto da indiscrezioni di parole del Presidente del Consiglio nei giorni scorsi, sì, tanto dai lavori della Commissione, è che piano piano tutto questo venga smontato, nel senso si attribuisca più potere al Consiglio d'Istituto, comunque agli organi collegiali. Ma guardi, anche noi abbiamo avuto questo timore, che cioè il disegno di legge entrasse in Parlamento, io ho detto, come un cavallo e uscisse un ircocervo, animale mitologico un po' strano. Tenga conto che dal 1998 c'è una disposizione di legge, quindi manca una cosa inventata negli ultimi tempi, che dice il preside è il garante dei risultati e garantisce alla comunità il successo, diciamo così, della scuola, degli studenti. Quindi già questo era previsto. Che cosa è successo in questi 20 anni, del circa dal 98 ad oggi? Che al preside non sono stati dati questi strumenti per essere il garante, quindi anche il responsabile di questi risultati. Ai sindacati in questo momento piace, diciamo così, descrivere il preside come uno sceriffo, perché loro amano molto più il preside come dire, quasi un notaio, cioè una persona che verga semplicemente una fotografia dell'esistente. Questo non è possibile. Tra l'altro io chiederei alle persone, che moltissime so oggi in piazza, che hanno scioperato, se in effetti nel loro corteo, nel loro sciopero del no alla buona scuola, no al preside con questi impegni e così via, se a loro va bene la scuola come è andata negli ultimi 20 anni. Noi sappiamo che i dati internazionali per quanto riguarda i nostri studenti, soprattutto i quindicenni, sono terrificanti, per cui questo sciopero di oggi secondo me è uno sciopero di conservatori, di immobilisti che vogliono, diciamo così, che hanno soprattutto timore che cambi qualche cosa e che li desti, diciamo così, dal loro sonno di tranquillità. Grazie Mario Rusconi, vicepresidente dell'associazione Presidi, e chiudiamo qua almeno per il momento il capitolo sulla scuola. Veniamo all'economia con le previsioni della Commissione europea sull'Italia. Le prospettive di croissance. Una vera ripresa ciclica, così l'ha definita il commissario Moscovici, è quella che ormai attraversa l'Europa, anche i dati lo confermano, dalla fiducia dei consumatori ai consumi, alla produzione industriale. Certo, l'eredità della crisi resta pesante, avverte il commissario, e la rimessa in moto è stata lunga. Al capitolo Italia la Commissione scrive che, sostenuta da fattori esterni positivi, l'economia italiana torna a crescere e la ripresa si rafforzerà. Quest'anno più 0,6%, l'anno prossimo più 1,4%. E dobbiamo dire grazie soprattutto alle esportazioni aiutate dal deprezzamento dell'euro. Altra nota positiva è il calo della disoccupazione, che dovrebbe stabilizzarsi attorno al 12,4%. Il nodo resta il debito, che tra l'altro sarà leggermente più alto nel 2015, oltre il 133%, ma poi secondo la Commissione la discesa sarà decisa dal 2016. Invariate invece le stime sul deficit. Qualche rischio la Commissione lo vede collegato a misure espansive, aggiuntive annunciate nella legge di stabilità, ma non ancora dettagliate. E sulla sentenza della Corte Costituzionale, che ha bocciato il blocco dell'adeguamento all'inflazione delle pensioni, aprendo a un ipotetico buco tra i 5 e i 10 miliardi, risposta scarna del commissario. È competenza delle autorità italiane indicare le misure per compensare le perdite e garantire che l'Italia resti all'interno del patto di stabilità. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'immigrazione adesso, nuovi morti nel Mediterraneo. Di sicuro ci sono già 5 morti, ma potrebbero essere molti di più. Alcune decine, forse una quarantina. Il canale di Sicilia aggiorna anche oggi il bilancio delle vittime. Uomini e donne annegati prima che i soccorsi potessero salvarli, prima che un portacontainer li raggiungesse in mezzo al mare per condurli verso il porto di Catania. Lo raccontano i sopravvissuti, ai volontari di Save the Children impegnati nelle operazioni di accoglienza. Parlano di un incidente su un gommone prima dell'arrivo dei soccorritori. In molti, dicono, sarebbero caduti in acqua. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto e la polizia continua ad ascoltare le testimonianze dei superstiti. E mentre continuano i salvataggi in mare e gli sbarchi, nel pomeriggio attesi a Palermo quasi 500 immigrati, 3 scafisti tunisini sono finiti in carcere, arrestati al largo di Lampedusa dalla Guardia di Finanza di Agrigento, accusati di essere stati alla guida di un barcone di legno che trasportava 43 migranti, 5 le persone fermate invece dalla polizia di Siracusa. Nazareno Orlandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E su questo tema torneremo tra poco, parleremo con l'operatrice di Save the Children che ha soccorso queste persone, che ha ricevuto questi racconti, ci faremo dire che cosa hanno detto i migranti approdati sul nostro territorio. Il ministro dell'Interno a Milano incontra le forze dell'ordine dopo le violenze e le devastazioni del primo maggio. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì, buongiorno, una visita del ministro e una promozione sul campo dell'agente ferito. Con 2 gesti simbolici il Viminale rivendica di fatto le scelte fatte nella gestione dei disordini del primo maggio e quella linea di riduzione del danno da molti criticata, che invece è stata strategica, perché sangue chiama sangue, ma come per il calcio, contesta ironico il ministro dell'Interno Angelino Alfano, gli italiani ora sono tutti allenatori di ordine pubblico. Arriva a Palazzo Odescalchi il ministro insieme al capo della polizia, che proprio oggi ha firmato la promozione ad agente scelto di Alessio Padovano, raggiunto da una Molotov che aveva incendiato la sua divisa. Una promozione che è anch'essa un simbolo per il comportamento complessivo delle forze dell'ordine, perché quella è stata una delle immagini più forti della corteo insieme alle bastonate alla vicequestore D'Urso. Non c'è spazio oggi per le polemiche, il tempo che resta è per le indagini complesse da portare avanti. 180 sono i profili di persone sospette già in individuate. Da foto, video ed esami come quelli del DNA si sta cercando di risalire agli altri violenti del corteo, oltre ai 5 italiani a cui ieri il giudice ha convalidato l'arresto, credendo più nella ricostruzione dei PM che aveva parlato di rischi anche per i cittadini che nelle loro professioni di innocenza. Di sicuro la linea appunto della Viminale ora è quella anche per il futuro di dare più poteri ai prefetti per cercare di evitare anche i cortei più violenti, e il ministro l'aveva già detto, l'ha ripetuto anche oggi, ed è tutto. Grazie Raffaella Calandra per questi aggiornamenti. È molto ha colpito, lo avete visto anche sui quotidiani e lo abbiamo raccontato qua, la reazione di Milano, la gente che si è messa a pulire, quelle 20.000 persone si sono messe a pulire dopo il passaggio dei Black Bloc. Tutto questo ha suscitato un nuovo dibattito interno, se volete, anche al centro-sinistra e non solo, se Pisapia si possa ricandidare. Ne parleremo più avanti col segretario del PD milanese Bussolati. Intanto ci spostiamo in Germania, dove scatta da oggi uno sciopero monster, 6 giorni per le ferrovie. In collegamento abbiamo il corrispondente della Germania del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Allora, cosa si prevede? 6 giorni di fermo per tutti i treni. I ferrovieri si sono in sciopero, hanno cominciato prima con il trasporto merci, che già ha un impatto significativo perché circa il 17% delle merci in Germania si muove su rotaia, quindi un impatto che si ripercuoterà poi anche sulla produzione industriale. Adesso sono in sciopero anche il personale che lavora sui treni passeggeri. Teoricamente sono 6 giorni di sciopero, una rivendicazione del 5% di aumenti salariali che combacia con quelle fatte un po' da tutto il resto dell'ordine pubblico. I lavoratori tedeschi stanno cercando di recuperare potere salariale che è stato molto compresso nell'ultimo decennio, il che dovrebbe dare anche un po' di spinta ai consumi. Si cerca una mediazione, ma non è chiaro che questa possa impedire questi 6 giorni di sciopero, che si sommano a vari altri che sono stati fatti già questa primavera nell'inverno. E grazie ad Alessandro Merli, corrispondente della Germania del Sole 24 Ore. La stima, tra l'altro, per Deutsche Bahn è di una, ossia per le ferrovie tedesche, di una perdita di 500 milioni di euro. Siamo al calcio, grande serata questa sera, la Juventus contro il Real Madrid. Juventus, Dario Ricci, che un po' ci spera. Deve farlo, perché questo è il turno della festa per i bianconeri, che magari a inizio stagione, visto anche l'avvicendamento improvviso di Conte con Allegri in panchina, non si aspettavano di essere a questo punto dell'annata e ancora sognare il triplete con lo scudetto già in tasca. Quindi questo è il turno della festa. Certo, però di fronte c'è il Real Madrid, campione in carica, c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, passato juventino sfortunato, e poi addirittura la Juventus con il Milan nel 2003 a Manchester, quella coppa tanto ambita gliela soffiata sotto il naso ai calci di rigore. Quindi sfida quanto mai stuzzicante ed importante, perché non provarci? Viene voglia l'obiettivo, viene voglia di dire l'obiettivo è lasciare aperta stasera ancora la gara del ritorno fra una settimana al Bernabeu, no? Perché questi sono i campioni e quindi vanno trattati con le molle. Più che presenti, ricordiamo gli assenti: non ci sarà Pogba nella Juventus, infortunato, ma potrebbe recuperare per la gara di ritorno. Tra i Blancos di Spagna, niente Modric, assenza importante, è il Pirlo del Real Madrid, fuori per tutta la stagione, e fuori anche Benzema, anche lui chissà, potrebbe esserci al ritorno, ma intanto godiamoci lo spettacolo di questa sera, che vi raccontiamo nel GR Serali e anche in Effetto Notte. Ovviamente, grazie a Dario Ricci per questo racconto, e di tutto questo, come ovvio, si parlerà a partire dalle 14 anche in tutti i convocati. Noi ci fermiamo per il traffico, ci ritroviamo subito dopo. Come vi dicevo, parleremo con l'operatrice di Save the Children, che ha raccolto le testimonianze dei migranti approdati questa mattina in Sicilia, che hanno raccontato di un nuovo naufragio con decine di morti. A tra poco. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. 100.000 in piazza a Roma contro il disegno di legge di riforma del sistema scolastico. Il ministro Giannini a Radio 24, da anni non ci si occupava di scuola. L'Italia crescerà dello 0,6% quest'anno, dice la Commissione europea, debito in calo a partire dal 2016. Un'altra strage, decine di morti annegati nel Mediterraneo, lo riferiscono dei migranti sbarcati in Sicilia all'Onlus Save the Children. Scontri con i No Expo, promosso sul campo l'agente ferito, Alfano polemico, in Italia sono diventati tutti allenatori dell'ordine pubblico. Prima di passare al prossimo argomento, solo un paio di risposte ad sms, suppongo, di ascoltatori che fanno parte del mondo della scuola e che ci scrivono a proposito dell'intervista che abbiamo realizzato con Mario Rusconi, che è vicepresidente dell'associazione dei presidi, che si è schierato a favore della buona scuola. Qualcuno dice che non siamo una radio obiettiva. Vi ricordo che ascoltiamo costantemente, nell'arco delle settimane e dei giorni, tutte le voci. Abbiamo spesso sentito i sindacalisti della scuola, abbiamo fatto un servizio di 2 minuti sulle proteste. Oggi abbiamo sentito Rusconi, sindacati della scuola, torneremo ad ascoltarli come facciamo sempre, come è giusto che sia, in una radio plurale. Parliamo intanto dell'Italicum e delle ombre che si addensano sul PD intorno alla riforma costituzionale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, la battaglia si sposta sulle riforme istituzionali per, ricordiamo, il Senato non elettivo. Dopo l'approvazione dell'Italicum nell'aula semivuota di Montecitorio, il Premier Matteo Renzi ha bisogno dei 2/3 del Parlamento e quindi di trovare l'accordo prima di tutto all'interno del partito, del PD. Ma il Premier non sembra volersi fermare, anzi oggi ribadisce di aver intrapreso il percorso di grandi riforme e dice andremo avanti con la testa dura. Resta però il dissenso della minoranza PD, aumentato poi nell'ultimo voto, quello sul provvedimento, rispetto ai voti di fiducia della scorsa settimana. Rosi Bindi parla di vittoria di Pirro e critica il provvedimento, che a suo dire ha gli stessi vizi del Porcellum, ammazza il bipolarismo ed è una legge del partito unico. Il ministro invece delle riforme, Maria Elena Boschi, non è preoccupata dal referendum abrogativo annunciato da dalle opposizioni. Mentre da parte della Lega Nord, Matteo Salvini è convinto che con la nuova legge elettorale vincerà le elezioni proprio il Carroccio e che questa legge si ritorcerà contro il Premier. Ma Matteo Salvini dice: prima andiamo a casa Renzi con le regionali, e la battaglia si sposta anche alle regionali. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Giovanna Di Benedetto è di Save the Children, si occupa di sbarchi di migranti, sostanzialmente dell'accoglienza di queste persone, e si trova a Catania. Buongiorno e benvenuta Di Benedetto. Buongiorno a voi. In una giornata nella quale, tra l'altro, che dovrebbe essere una giornata di festa per Save the Children, perché si apre oggi il vostro villaggio all'Expo di Milano, tra l'altro con un concerto di Giovanni Allevi, e invece lei si è trovata a raccogliere oggi testimonianze di migranti arrivati sul nostro territorio che hanno raccontato in un nuovo naufragio, è così, no? Sì, premetto che sono le prime testimonianze raccolte al momento dello sbarco, che quindi andranno verificate, saranno poi le autorità a stabilire come è andata esattamente i numeri. Le cose che ci hanno detto i primi migranti che sono scesi, tra l'altro alcuni di questi erano proprio minori, è stato proprio che sono arrivati, erano due diversi gommoni, le persone che erano in un gommone in cui c'erano circa un centinaio, 105 persone, sono arrivate tutte salve, mentre quelli dell'altro gommone erano forse 137, un numero diciamo, che hanno ripetuto diverse persone, hanno avuto un incidente poco prima dei soccorsi. La dinamica dell'incidente non è chiara, c'è chi ha detto che è esploso il gommone per il sole, chi forse si è sgonfiato, questa cosa non è chiara per niente, ma sembra che molte persone siano cadute in acqua, non sapendo nuotare sono annegate. Alcuni hanno detto tante, altri hanno detto una quarantina. E questo tante intende che potrebbero essere più di una quarantina, in sostanza? No, non credo, credo che Massimo hanno detto tante decine, non sapevano quantificarle, ma no. Pur nella condizione nella quale sono arrivati, sono stati in grado di dirvi dove questo sarebbe avvenuto più o meno? No, dopo la partenza, se vicini all'arrivo, se in mezzo al mare? Poco prima dei soccorsi, avevano già visto la nave diciamo che li stava soccorrendo. Avevano già visto la nave che li stava soccorrendo. Sì, poco prima dei soccorsi, sì, purtroppo. E c'erano minori tra loro che voi sappiate, che siete riusciti a capire? Non sappiamo se tra le persone che non ce l'hanno fatta c'erano minori, però sul gommone certamente sì, sono scesi almeno una decina di minori non accompagnati che erano su quel gommone, in tutto ora sono invece una più di 30, c'erano anche alcune donne e anche delle bambine. Di che età più o meno? I bambini sono piccoli, 5, 6, 7 anni, i minori hanno tra i 16, 15, 17 anni. La ringrazio. Grazie a Giovanna Di Benedetto di Save the Children, e anche evidentemente per il lavoro che fate. Da Catania si occupa di sbarchi e di migranti. Noi ci spostiamo adesso in Nepal con le nuove cifre sulle vittime del terremoto. È un bilancio che non smette di aggiornarsi, quello delle vittime del terribile terremoto che il 25 aprile ha sconvolto il Nepal. I morti, ha fatto sapere il Ministero dell'Interno, ora sono saliti a 7.557, mentre i feriti sono 14.530. Il distretto più colpito è stato quello di Sindulpalkov, seguito da Kathmandu. Ingenti anche i danni agli edifici completamente distrutti, 191.000 case private e 10.700 edifici pubblici. L'unità di crisi della Farnesina è riuscita a individuare in queste ore anche gli ultimi italiani segnalati e non ancora rintracciati. Le salme di Oscar Piazza e Gigliola Mancinelli hanno fatto ritorno in Italia, mentre continuano le ricerche delle altre due vittime, Marco Poyer e Renzo Benedetti. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, ma ci spostiamo negli Stati Uniti, dove è arrivata la rivendicazione per l'attacco avvenuto a Dallas. Dopo il tweet di ieri, l'ISIS ha rivendicato con una dichiarazione audio trasmessa dalla sua radio ufficiale l'attacco sferrato domenica a Garland, in Texas, dove era in corso un concorso di vignette su Maometto. Sono stati due soldati del califfato, ha affermato il gruppo terroristico, facendo riferimento proprio all'attentato messo a segno da due uomini, poi uccisi dalla polizia, che hanno aperto il fuoco contro le guardie davanti all'edificio che ospitava l'evento e a cui partecipava anche il politico ultraconservatore olandese Geert Wilders, noto per le sue posizioni posizioni anti-Islam. I due attentatori sono stati identificati come Elton Simpson, cittadino americano di 30 anni, originario dell'Illinois, residente a Phoenix, e Nadir Sofi, 34 anni, suo coinquilino di origine pakistana, titolare di una ditta di pulizia di tappeti. Simpson era una vecchia conoscenza dell'FBI, era indagato dal 2006 per terrorismo e avrebbe pubblicato diversi tweet sull'attacco prima di partecipare alla sparatoria. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi è la giornata nazionale contro la pedofilia. 600.000, tanti sono i video e le foto pedopornografiche che circolano sulla rete italiana. La stima è dell'associazione Meteorlus nel suo rapporto sul 2014. Don Fortunato Di Noto, che la presiede. Solo questo dovrebbe forse farci capire che la pedofilia, la pedopornografia non è soltanto il pruriginoso bisogno di qualcuno che vuole abusare di un bambino, è anche una strategia di business. Internet è il canale preferito dai pedofili, non solo per la diffusione di immagini e video, sono triplicati i casi di adescamento di minori dallo scorso anno, denuncia Telefono Azzurro. Il presidente Ernesto Caffo. L'accesso alle tecnologie diventa sempre più possibile a parte dei bambini e questo senza nessun controllo da parte né delle istituzioni né delle aziende che governano il mondo dei social. In aumento anche i neonati violati, soprattutto da donne, ed è l'Europa il continente che detiene il record negativo, seguito da Africa, America, Asia e Oceania. In Italia sono 14 siti a rischio segnalati sempre da Meteorlus, ma il numero potrebbe crescere a causa del fenomeno del deep web, domini dentro altri domini che permettono ai pedofili di nascondersi ed essere completamente irrintracciabili. Camilla Romana Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'ascoltatore Emanuele che ci scrive via SMS, dice: vai con raccantino strappalacrime pro immigrazione del giorno, diciamo che non è nessun raccantino strappalacrime, è un fatto di cronaca, ci sarebbe stato un naufragio di un gommone, abbiamo parlato con la persona che ha raccolto le testimonianze, questa si chiama cronaca e non si chiama raccantino strappalacrime. Ci fermiamo, c'è la borsa, ci ritroviamo subito dopo, dobbiamo parlare tra le altre cose del rapporto annuale sull'andamento del cinema in Italia e i dati sono negativi soprattutto per quanto riguarda il primo trimestre, e poi ci occuperemo del prossimo sindaco di Milano. Forse direte è un po' presto, ma la manifestazione dell'altro giorno per ripulire la città dopo il vandalismo messo in atto dai Black Bloc ha fatto ritornare l'ipotesi che Pisapia si ricandidi. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. 100.000 tra professori, studenti, operatori della scuola in piazza contro il disegno di legge di riforma del sistema. 100.000 a Roma, 30.000 a Milano. L'Italia crescerà dello 0,6% quest'anno, dice la Commissione europea, debito in calo a partire dal 2016. Un'altra strage, sarebbero decine i morti annegati nel Mediterraneo, lo riferisce Save the Children. Scontri con i No Expo Alfano polemico, in Italia sono diventati tutti allenatori dell'ordine pubblico. Si apre oggi uno sciopero monster del personale delle ferrovie tedesche, treni fermi per 6 giorni. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Brevemente ancora un paio di risposte agli SMS. Innanzitutto all'ascoltatore, abbiamo citato Roma e Milano come manifestazioni della scuola perché sono le più grandi. Sì, ci sono anche Bari, Napoli, Firenze, Palermo, Taranto, Torino e come vede l'abbiamo detto. Infine agli ascoltatori che ancora sul tema dell'immigrazione ci danno dei ridicoli e altri che dicono ci sono modi diversi di dare le notizie, gli dico scrivetemi effettogiorno@radio24.it, così abbiamo un confronto franco ed evitiamo anche questa disparità, cioè io al microfono a parlare a molte più persone di quanto non possiate fare voi via SMS. Pietro Bussolati, segretario del PD di Milano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Molti si stanno chiedendo, insomma, viste quelle 20.000 persone in piazza per ripulire gli atti di vandalismo fatti dai Black Bloc e il fatto che il sindaco Pisapia sia riuscito, come dire, a convocarne così tanti, ha riportato in tema l'ipotesi che lo stesso Pisapia possa ripensarci e possa ricandidarsi per un secondo mandato. E voi lo auspicate, lo sperate o no? Ma iniziamo a dire che l'iniziativa dei 20.000 in piazza domenica è stata un'iniziativa dei milanesi che è nata da idee diverse che avevano lo stesso obiettivo, quella di restituire dignità a Milano e restituirla alle milanesi e milanesi. È nata in rete, è nata un po' anche dall'idea, sì, di... Sì, per carità, non c'è dubbio però, Bussolati, che la centralità della figura di Pisapia in quella manifestazione è stata evidente, certo, insomma. Però no? Non era un'iniziativa di centrosinistra, c'è stata questa battuta di Bisio alla fine, che gli ha chiesto di ricandidarsi, una cosa che anche noi come Partito Democratico gli abbiamo sempre chiesto, perché Pisapia è stato un grande sindaco e sta rinnovando Milano sotto tutta una serie di punti di vista. Detto questo, io conosco bene Giuliano Pisapia, è una persona che quando prende una decisione difficilmente cambia idea, quindi non credo che sarà una piazza o saranno degli appelli a cui posso aggiungere anche la mia voce di ripensarci a fargli cambiare idea. Credo che lui abbia deciso così per tutta una serie di ragioni, anche di ragione personale, e credo che quindi rimarrà coerente con questa cosa. Ci spiace, ma sappiamo che lui non farà mancare il suo contributo anche per il futuro, per la scelta del futuro candidato sindaco e per la guida di Milano futura. Detto ciò, non disperate, ci state comunque provando, avete provato a richiederglielo o no? No, ripeto, Giuliano Pisapia è una persona molto coerente, molto dignitosa e molto decisa. Quando si decide una cosa non cambia idea, quindi sarebbe irrispettoso nei suoi confronti continuare a chiedergli di ripensarci in qualche modo, e lo si metterebbe in difficoltà. Io l'ho visto anche in imbarazzo sul palco quando Claudio Bisio gli ha rivolto questo accorato appello, che era condiviso anche da gran parte dei milanesi, perché ripeto, Pisapia è stato un grande sindaco. Proprio non ha voglia. Senta, Bussolati, e come procederete? Noi procederemo con le primarie, perché crediamo che il candidato sindaco del futuro lo si debba scegliere con tutti i cittadini. Poi il 13 giugno stiamo organizzando come Partito Democratico una grandissima iniziativa che parlerà di contenuti, parlerà di Milano, come sarà Milano domani, a partire da quanto di buono è stato fatto in questi anni. Expo compreso, immagino, insomma, il tema. Expo e post-Expo compreso, anche nel mese di maggio avremo un confronto anche col ministro Martina proprio sul futuro dell'Expo, perché ovviamente cosa avverrà in quel terreno, in quella porzione di territorio metropolitano, potrà cambiare volto anche allo sviluppo della città. E quello è un tema, su quello siamo ancora in alto mare, mi pare, no? Adesso c'è stata una riunione in cui il governo ha deciso di intervenire anche in prima persona, e questo ci rende molto felici, perché il ministro Martina sta svolgendo un importante ruolo da questo punto di vista. C'è un percorso che è stato avviato e non ho dubbi che si farà. Come c'è stato un grande Expo, di una grande partenza di Expo, non si farà un grande post Expo. I primi due giorni di Expo hanno avuto 500.000 ingressi singoli, quindi insomma mi sembra che Milano ha dimostrato di saper stare al centro del mondo. Grazie a Pietro Bussolati, segretario del Partito Democratico a Milano. Una notizia appena battuta dalle agenzie: l'ISIS, rivendicando l'attacco all'evento sulle vignette di Maometto a Dallas, ha promesso altri attentati in futuro. Vi diciamo, America, che quello che sta arrivando sarà più doloroso e più amaro, e vedrete come i soldati del califfato vi colpiranno, così si legge in questo messaggio dell'ISIS. Passiamo a parlare quasi in chiusura di cinema, ma più che altro i dati economici che riguardano il cinema, che sono stati diffusi questa mattina. Francesco Deremigis, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Sono numeri non particolarmente soddisfacenti quelli riassunti dalla Direzione Generale Cinema del Ministero. Nel 2014 l'Italia ha prodotto più film, sono 201 rispetto ai 167 dell'anno precedente, ma sono in flessione gli investimenti. Crescono le piccole produzioni, quelle contenute entro i 200.000 euro, un dato che esalta la capacità di realizzare pellicole anche di buon livello e a basso costo, che però non premia al botteghino. Non si sono realizzati colossal o simili nel 2014 perché gli investimenti nell'industria cinematografica sono in flessione, spiega Nicola Borrelli della Direzione Cinema del MIBACT, mentre il ministro Dario Franceschini definisce vincente quella modifica della tax credit internazionale, ovvero quei benefici fiscali per le produzioni straniere che danno la possibilità di mostrare l'Italia attraverso il cinema. Dice il ministro: fa più un film girato a Roma o a Firenze che tanti spot pro turismo. La linea del Ministero dei Beni Culturali resta quella di premiare gli under 35, di investire nella produzione di documentari, ma Riccardo Tozzi, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dell'Industria Cinematografica, dice che i film che costano di più sono poi alla fine quelli che registrano il maggiore successo, il maggiore incasso. Il problema costante è anche la stagionalità del cinema italiano, con 3.600 schermi utilizzati solo 8 mesi l'anno, la metà della Francia, per intenderci, con i biglietti in ribasso 100 milioni di biglietti soltanto l'anno scorso o circa, ma come ricordano Francesca Cima e Andreotti Pinti, che rispettivamente sono presidenti dei produttori e dei distributori Anica, ci si consola con la presenza ancora costante dei film italiani nei festival internazionali, come per esempio a Cannes. Come dire, il cinema italiano non sta vivendo il suo momento migliore, ma neppure il peggiore. È tutto per il momento. Grazie a Francesco De Remigis per questo aggiornamento e per questi dati. E c'è un'altra notizia che vi devo dare prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e poi a sentire Mario Platero, che ritornerà sul tema degli attentati di Dallas. Allora, la notizia è questa, che questa mattina la Guardia di Finanza è entrata nella sede, per fare delle perquisizioni, nella sede di A-Towers, che è la società di Mediaset che aveva lanciato l'offerta pubblica di acquisto sulle torri di Rai Way. Ebbene, la notizia che è stata diffusa in questi minuti è che i componenti dell'intero consiglio di amministrazione di A-Towers risultano indagati per aggiottaggio nell'ambito di un'inchiesta del PM di Milano Adriano Scudieri proprio su questa offerta pubblica di acquisto su Rai Way. Lo ricordiamo, il reato di aggiottaggio è quando si compie un'azione speculativa diffondendo informazioni allo scopo di ottenere un rialzo o un ribasso dei prezzi, in questo caso di un'azienda quotata in borsa. Traffico.